Buongiorno da Dario Ricci. È tutto verde oro il cosiddetto derby del mondo all'Emirates Stadium di Londra. Il Brasile batte l'Italia per 2-0, successo meritato, deciso dai gol di Elano e Robinho nella prima mezz'ora, anche se dopo appena 4 minuti una rete di Grosso era stata annullata per un millimetrico fuorigioco, ma in campo nel primo tempo ci sono solo i brasiliani. Nella ripresa Lippi rivoluziona la squadra, dentro Perrotta, Toni, Camoranesi e Giuseppe Rossi. Azzurri vicino al gol con Toni e Grosso, ma Julio César è insuperabile. Per ora quindi il Brasile c'è superiore, conferma Lippi, che si ferma a 31 risultati utili consecutivi sulla panchina azzurra. Sono giocatori con caratteristiche particolari, no? Tecnicamente sono tutti molto dotati. Una serata come questa, con la determinazione giusta, ti possono mettere in difficoltà. Noi in questo momento ancora non siamo forti come vogliamo diventare. In questo momento il Brasile è più forte dell'Italia. Tra un anno e mezzo, non lo so, vediamo. E stasera altre big in campo. Si scrive amichevole, si legge anticipo di sfide che tra 16 mesi saranno riproposte negli stadi del Sudafrica, quando però varranno tanto, tantissimo, magari un quarto di finale o una semifinale mondiale. Due partite su tutte. A Marsiglia si sfidano la Francia di Henri e Ribéry e l'Argentina di Lionel Messi. 90 minuti che si annunciano di grandissimo spettacolo, Maradona si presenta all'Europa che conta, come CT. I francesi considerano Messi l'erede del Pibe d'Oro e di Zidane, tanto da affollare ieri nella giornata della vigilia i campi di allenamento della Celeste. E se non bastasse, il contorno è fatto di nomi altrettanto importanti, Gourcuff e Benzema tra i francesi, Agüero, Tevez e Mascherano tra gli argentini. L'altra sfida da non perdere è quella di Siviglia tra Spagna e Inghilterra. È il ritorno di Beckham tra i leoni, per lui presenza 108 come un certo Bobby Moore. È una partita preceduta dalle polemiche per gli insulti razzisti del 2004 che l'hanno allontanata dal Bernabeu. È la prima ad altissimo livello dei campioni d'Europa che sperano di ripetersi in Sudafrica. Giovanni Capuano, GR24, Il Sole 24 Ore. Prima Mourinho, ora Casiraghi, Mario Balotelli continua a far arrabbiare i suoi allenatori. Stavolta tocca al CT dell'Under 21, stasera in amichevole con la Svezia, rimproverare l'attaccante nerazzurro, arrivato con alcune ore di ritardo in ritiro. Ho parlato con il ragazzo anche a lungo, sono stato molto chiaro, spero che abbia capito, non ne sono sicuro, ma spero che abbia capito, perché ovviamente la nazionale non è una squadra di club. Qua se hai un'occasione la devi sfruttare, perché può anche darsi che una seconda occasione non avvenga più. È il CT della nazionale russa, l'olandese Gus Hiddink, il grande favorito per sostituire l'esonerato Scolari sulla panchina del Chelsea. Ieri è arrivato un via libera di massima dalla Federcalcio russa. Ma per giugno i londinesi punterebbero poi sul tecnico del Milan, Carlo Ancelotti. E ora lo sci con i mondiali in Val d'Isère. Il martedì di riposo, coinvolto da un'autentica bufera di neve, coincide con la fine delle gare veloci dei mondiali di Val d'Isère. Il bilancio è positivo per l'Italia, visto che rispetto ad ora abbiamo una medaglia in più. L'argento di Peter Fili in Super G e il bronzo di Nadia Fanchini in discesa sono il giusto premio per un movimento in piena salute. Certo è mancato l'oro, peraltro è arrivato decisamente a sorpresa 2 anni fa in Svezia con Patrick Staudacher. La vera delusione è il Funder Team, l'Austria al maschile è ancora a secco di podi dopo 3 gare, non accadeva da Aspen 1950. La regina si chiama Lindsay Vonn, capace della doppietta discesa Super G come Dorfmeister a Torino 2006 e perso nel mondiale del 2007. La voglia di festeggiare era tale che l'americana si è tagliata la mano destra cercando di stappare una bottiglia di champagne con uno sci. Oggi, tempo permettendo, è in programma il team event dove gli azzurri Rocca, Molg, Innerhofer, Gius, Merighetti e Fanchini sono da medaglia. Dario Puppo, GR24, Sole 24 Ore, Val d'Isère. Chiudiamo col basket, grandi sfide per le italiane stasera in Eurolega. Milano va in trasferta con gli spagnoli del Tau. Siena ospita i campioni in carica del CSKA a Mosca. Domani Panathinaikos, Roma. E per lo sport è tutto.